parla è stupido litigare. D'accordo, sì, però l'ho vista. Sottenerti il muso se mi stringi tu, mi sciolgo nel tuo abbraccio e nervi non ho più. E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme, se ci arrabbiamo un po' ancora dai, non cambiare mai, ci vuole poco a fare pace se anche tu lo vuoi, e stelle sul soffitto accendiamo noi.